Law and Order, armi da guerra oppure senza armi, modelli a confronto, la polizia di fronte allo specchio. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. I want you to know we will not be increasing our police budget. How can we at this moment? What they are doing in cities across the United States is eroding the trust that they have built up over the decades. Vous avez une affiche où il écrit en grand « Chassez la crasse ». On parle d'humain, on dit « Chassez la crasse ». Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Taglia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Danilo Di Trani oggi in assistenza e in regia Valeria Bernardi. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp per domande e commenti rispetto al tema che vi sottopongo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Naturalmente ci sono anche i social. La pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino la 24, gli account Twitter da tenere d'occhio Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. E il tema è presto detto: dopo la morte di George Floyd, le manifestazioni, non soltanto negli Stati Uniti, le proposte di tagliare i budget alla polizia in varie comuni città degli Stati Uniti. Oggi, partendo da questi dati, proveremo a ragionare sull'efficacia della polizia in alcuni quadranti del mondo e sul senso che essa ha per la società e se e come debba essere armata. Esiste un patto tra cittadini e polizia, ma se questo si rompe, che cosa accade? Questo è il tema di oggi, 349-238-6666, però noi come prima cosa e come ogni giorno andiamo a sfogliare i nostri dossier. Il primo ci porta in Brasile. Proprio ieri vi avevamo dato conto della decisione del presidente Jair Bolsonaro di evitare di pubblicare quotidianamente i dati aggregati rispetto alle morti e ai positivi di Covid-19. E proprio in polemica con questa decisione c'è una presa di posizione molto forte da parte di alcuni organi di stampa. In particolare un consorzio di cui fanno parte i quotidiani O Globo, Extra, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, oltre che a due portali di notizie online, il G1 della rete Globo e Wall, sempre del gruppo Folha, sostanzialmente hanno deciso di divulgare un bilancio parallelo a quello ufficiale, per cui i cittadini brasiliani, chi vorrà almeno ascoltare e leggere questi media, troverà delle difformità rispetto ai dati diffusi dal governo brasiliano. Tutti questi media sono entrati periodicamente e recentemente in rotta di collisione con Jair Bolsonaro, che li ha bollati di diffondere fake news. In base alle cifre raccolte da questi media, e così andiamo proprio nel cuore della questione, il Brasile ieri ha registrato 849 nuovi decessi per Covid-19, mentre per il governo sarebbero stati 679, mancando all'appello i dati degli stati di Santa Caterina Sud e Alagoas Nord-Est. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666 e tra pochissimo naturalmente me ne darò conto, non prima di essere andati in Libia, che è un dossier sempre caldissimo qui sul tavolo della redazione e si arricchisce di ulteriori elementi molto molto interessanti dopo la dichiarazione di ieri del presidente turco Erdogan, che ha parlato di un non meglio precisato accordo con gli Stati Uniti e col presidente Donald Trump. Questo accordo segnerebbe, secondo Ankara, l'inizio di una nuova era nel conflitto in Libia. Voi sapete che la Turchia supporta militarmente e non solo il governo riconosciuto dall'ONU di Fayez al-Sarraj, che sta menando una efficace controffensiva contro Haftar, il quale a sua volta è appoggiato, fra gli altri, da Egitto, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, i quali però sono ferri alleati degli Stati Uniti, che hanno un testa di ponte di buoni amici non soltanto nei paesi del Golfo ma anche nel Medio Oriente allargato. Una dichiarazione della Casa Bianca ha fatto sapere che i due presidenti, i due omologhi, hanno discusso della guerra nel paese nordafricano, Libia appunto, oltre che di Siria e della situazione nel Mediterraneo orientale, senza però fornire ulteriori dettagli. Staremo a vedere. Se si muovono Ankara e Washington, naturalmente si muove anche Mosca. Sul fronte russo, in particolare, le parole di Mikhail Bogdanov, che in un'intervista al quotidiano egiziano Al-Ahram, che è uno dei più letti, dei più diffusi, ha detto, smentendo totalmente le voci della presenza della Wagner in Libia, Le informazioni diffuse da alcune fonti straniere, tra cui il Dipartimento di Stato statunitense, mirano semplicemente a screditare la politica russa sulla Libia e si basano su dati falsificati. Tali affermazioni, ha detto Bogdanov, si basano spesso su fonti dubbie che hanno un interesse diretto a sostenere gli oppositori di Haftar. È impossibile dimostrare la credibilità di tutta una serie di fatti, così la presa di posizione del referente degli esteri russo. E poi in Iran, per due storie. La prima, che ci porta alla condanna a morte di Mahmoud Mousavi Majid, ai più non dirà molto, ma è stato accusato da Teheran di essere un agente segreto che lavorava sia per la CIA che per il Mossad, quindi sia per gli Stati Uniti che per Israele. Galam Hossein Esmaili, che è il portavoce della magistratura iraniana, ha detto che presto l'uomo sarà impiccato in modo tale, cito testualmente, che i padroni possono vedere il risultato del tradimento. Il reato di cui è accusato Majid sarebbe gravissimo, perché le informazioni da egli rivelate a Stati Uniti e Israele avrebbero portato all'eliminazione, all'assassinio del generale Qassem Soleimani, lo ricordate, ucciso il 20 gennaio scorso nel corso di un raid mirato in Iraq presso Baghdad, proprio dagli Stati Uniti. E poi dall'altra parte, sempre la magistratura iraniana continua a muoversi, dando notizia che sono state arrestate 6 persone in relazione all'abbattimento, dovuto, lo ricorderete, errore umano, lo mettiamo tra virgolette, del jet ucraino lo scorso 8 gennaio, appena decollato dall'aeroporto di Teheran, morte 176 persone a bordo. Lo stesso Ismaili, il portavoce della magistratura della Repubblica Islamica, ha detto che 3 degli arrestati sono rilasciati su cauzione. Evidentemente Teheran vuole mostrare che anche quell'increscioso incidente, come è stato definito, avrà un suo corso giudiziario e i colpevoli saranno portati davanti a un tribunale. E poi in Corea, o meglio nelle due Coree, o meglio ancora al confine. Perché? Perché Pyongyang ha annunciato ufficialmente poche ore fa di aver interrotto ogni comunicazione con la Corea del Sud, compresa quella linea diretta che è stata stabilita tra i due leader di Seoul e Pyongyang per evitare un'escalation di tensioni. Dal mezzogiorno di oggi i due paesi sostanzialmente non si parlano più. È la prima volta dal 2018. Che cosa significa non parlarsi più? Ebbene, non soltanto le telefonate, le linee civili sono state interrotte, ma anche quelle militari, compresa la telefonata giornaliera che appunto quotidianamente viene fatta da sud a nord e viceversa, per in qualche modo rassicurarsi e rassicurare l'avversario che le cose sono calme, sono tranquille, non verrà alcuna escalation. Perché tutto questo? Allora, la motivazione ufficiale è che da tempo c'è un'attività di propaganda che viene effettuata da disertori del nord che fuggono a sud e poi lanciano messaggi grazie a una serie di piccoli aerostati, di palloncini che depositano biglietti anti Pyongyang in territorio nordcoreano. In realtà probabilmente c'è il tentativo da parte della Corea del Nord di alzare la posta in gioco quando sarà ora di rimettersi al tavolo delle trattative. Infine in Mali, ieri vi davamo notizia della morte di Abdelmalek Droukdel, numero uno di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Resta però alta la tensione in Mali e stavolta ci si mette che cosa? Beh, l'eccessivo uso della violenza, a dir poco, è un eufemismo, delle forze di sicurezza maliane. L'esercito maliano infatti si è macchiato di 2 gravi episodi in 2 luoghi diversi. Siamo nel distretto di Mopti, 2 attacchi contro 2 villaggi. Secondo i testimoni, gli uomini indossavano divise militari. La morte di 40 persone tra uomini, donne e bambini sarebbe il bilancio di questi attacchi. Naturalmente è ancora presto per sapere se questa denuncia, che arriva dal gruppo Fulani, che è uno dei più diffusi lì nel Mali del Nord, sia fondata. Ricorderete, l'abbiamo raccontato molto spesso a Nessun Luogo Lontano, in quelle zone è molto facile non soltanto attaccare una base militare e appropriarsi degli armamenti, ma evidentemente, come potete intuire, anche delle divise, e molto spesso bande di criminali adottano delle tecniche di mimesi, proprio rubando le divise militari. Vedremo come andrà, però è un tassello preoccupante che va a colpire un paese che è in crisi oramai da oltre 6 anni. Infine, l'ultimo dossier che vi sto proponendo, che campeggia qui sul tavolo della redazione, ci porta a Idlib in Siria. Lo sapete, l'ultima roccaforte che dovrebbe prima o poi cadere per permettere a Bashar al-Assad, a Damasco, di restituire integrità territoriale alla Siria. Idlib era oggetto di una tregua negoziata proprio da Turchia e Russia fin dai primi di marzo. Ebbene, ieri o l'altro ieri vi davamo conto di un primo bombardamento da parte dell'aviazione russa, secondo l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria, che è questa associazione, una diaspora siriana che sta a Londra e che è l'unica fonte, quindi non facilmente verificabile, le cui notizie non sono facilmente verificabili, che dà notizie appunto da Idlib, dice che vi sarebbe il primo morto, la prima vittima civile per questi attacchi aerei che sarebbero condotti, sempre secondo l'osservatorio, da parte di jet di Mosca. Allora, 349-238-6666, ci sono già i primi messaggi da parte vostra. Noi, Valeria Bernardi, andiamo negli Stati Uniti. Devo dire che i primi messaggi sono catalizzati, c'è molta attenzione e interesse anche da parte vostra su questo accordo fra Turchia e Stati Uniti. Qualcuno interpreta quell'accordo, di cui non si sa ancora molto, in questo modo. Gli Stati Uniti, scrive un ascoltatore, fanno fare il lavoro sporco ai turchi, così il sultano continuerà ad aumentare le sue influenze nel Mediterraneo, indebolendo l'Africa e l'Unione Europea. Trump ha detto più volte di non essere più interessato alle alleanze nel vecchio continente, e così un ascoltatore. Poi un'ascoltatrice, se leggo bene, interpreto bene l'immagine che arriva dal profilo WhatsApp, premetto che non sono un fan, no, è un ascoltatore evidentemente di Trump, ma mi chiedo come mai siete così apertamente schierati con i Dem americani. Io continuo a ripetere, a rischio di essere noioso, qua non è questione di schieramento, noi cerchiamo di riportare i fatti nella maniera più oggettiva possibile. Le dichiarazioni che riportiamo sono quelle di Donald Trump. I commentatori, possono non piacervi, ma sono commenti. D'altra parte, mi sembra anche di lasciare ampio spazio ai vostri commenti, alle vostre critiche. Lo ricordo, le regole sono semplicissime, non ammetto turpiloquio, offese, commenti sessisti o xenofobi. Per il resto, questo vuole essere un luogo anche di dibattito per tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani, ma lo sapete, la nostra missione è dimostrare ogni giorno che tutto quello che accade anche in luoghi apparentemente lontani avrà sempre comunque un riflesso anche da noi. Il tema di quest'oggi è la riflessione che molte forze di polizia, ma che quindi ragionevolmente anche la politica, sta facendo partendo dalla tragica morte, l'uccisione di George Floyd negli Stati Uniti. Una delle proposte che è stata portata avanti e continua a essere molto spesso anche sul tavolo di alcuni sindaci statunitensi è il taglio dei fondi alla polizia, il Defund the Police. Sempre di più i movimenti che propongono questa soluzione, quindi dare meno soldi alla polizia, forse armarli anche un po' meno. Io vi anticipo, gentili ascoltatrici e ascoltatori, ho qualche dubbio che questa sia la strada giusta, però rimango col mio dubbio. Vediamo se a fine puntata, anche grazie a voi, cercheremo di far evaporare qualche nebbia. I funzionari del governo hanno liquidato l'idea come una fantasia di sinistra, ha scritto il Guardian. Però allo stesso tempo non solo i recenti disordini, ma anche le grosse manifestazioni e i deficit di bilancio che il Covid-19 sta portando stanno in qualche modo portando alcuni politici a ripensare anche l'allocazione delle risorse. Sostanzialmente si dice con la crisi del coronavirus ci saranno meno soldi, perché continuare a dare fondi così cospicui alle polizie statunitensi. In particolare il Guardian ha analizzato il budget di alcune importanti città americane. Los Angeles, per esempio, il budget per la polizia è di 1.8 miliardi di dollari per il biennio 2020-2021. Il sindaco Eric Garcetti, democratico, che aveva inizialmente previsto un aumento del 7%, ha fatto marcia indietro dopo che si è trovato le proteste sostanzialmente di questi movimenti che urlavano Defund the Police, quindi tagliate i fondi alla polizia, proprio di fronte a casa sua. Annunciando il taglio, ha destinato 150 milioni di dollari di quei tagli alle comunità afroamericane e latine della sua città. A New York, per darvi un altro esempio, il budget per la polizia è di circa 6 miliardi di dollari e il New York Police Department conta circa 36.000 agenti. Anche qui il sindaco democratico Bill de Blasio. Gli attivisti chiedono un taglio di almeno un miliardo di dollari da investire invece in progetti per le comunità e sostegno alle fasce più povere. Il sindaco de Blasio è intenzionato a prelevare fondi dal Dipartimento di Polizia e utilizzarli nei programmi per i giovani. Giusto per parametrare questi dati, e prendiamo in esame il budget 2021 della città di New York. Per ogni dollaro speso per le forze di polizia e il sistema penitenziario, appena 29 centesimi sono previsti per i servizi per i senza dimora, 25 centesimi per il Dipartimento della Salute e 12 centesimi per i giovani. Naturalmente è arrivato il no secco di Donald Trump, non ci sarà nessun defunding, peraltro anche Biden si è pronunciato in questo senso, è un tema, è una leva politica formidabile, gentile ascoltatrice e ascoltatori, è evidente che su questo aspetto e ai noi e ai loro, soprattutto i cittadini statunitensi e le vittime, anche la campagna elettorale statunitense si giocherà su quello che è stata l'immagine di George Floyd e quell'evento tragico. Dicevo del secco no di Donald Trump, non ci saranno tagli, non ci sarà nessuno smantellamento della nostra polizia, la nostra polizia ci ha consentito di vivere in pace, così ha detto Donald Trump, che se seguite su Twitter in particolare negli ultimi giorni si è abbandonato molto molto di frequente a un nuovo hashtag molto spesso scritto in maiuscolo, Law and Order, recuperando un vecchio adagio di un suo predecessore e attirandosi peraltro anche una serie di battute notevoli, perché sapete che Law and Order è anche una serie TV americana, così c'è qualcuno che gli ha postato immediatamente varie serie anche un po' più criminali tipo Soprano, insomma, ma questo è aspetto di colore, non vogliamo entrare su questo. 349-238-6666 invece per i vostri messaggi. Qualcuno prova ad andare al cuore del problema. Il problema negli Stati Uniti non è la polizia, è la mentalità sull'utilizzo delle armi. Tagliando i fondi sarà ancora peggio, così un ascoltatore. I tagli ai fondi alla polizia sono soltanto per consenso politico, ne fa eco un altro. Quando la delinquenza riprende fiato, allora la gente vuole ordine e giustizia. Così un ascoltatore che si firma Shu. Allora, quando si parla di queste cose, è utilissimo utilizzare una disciplina, una lente per andare a analizzare questi fatti. La disciplina è la criminologia, che consente di, intanto è multidisciplinare di per sé questa disciplina, perché riesce a combinare, a miscelare sapientemente concetti di sociologia, ma anche di diritto, e in questo modo aiutarci a fotografare quello che sta accadendo. E lo farà con noi Giuseppe Campesi, che è professore alla Facoltà di Scienze Politiche di Bari, insegna crimine, pena e società, fra l'altro anche Migration, Borders, Human Rights, e ha scritto varie pubblicazioni proprio sulla sicurezza pubblica e sui poteri della polizia. Professor Campesi, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo. Buongiorno a voi. Allora, professor Campesi, ha destato parecchio scalpore e anche preoccupazioni in commentatori non avvezzi a seguire le vicende americane, oltre alla morte di George Floyd, anche vedere la polizia statunitense in alcune città con vere e proprie armi da guerra. Come è iniziata questa militarizzazione della polizia negli Stati Uniti e che senso ha? Allora, diciamo, prima magari proviamo ad intenderci sul concetto di militarizzazione, sì. Perché diciamo non è un concetto esattamente chiaro, è un concetto su cui c'è stato un grande dibattito negli ultimi anni negli Stati Uniti, perché appunto sia diciamo l'evoluzione degli equipaggiamenti a disposizione delle forze di polizia, ma anche le strategie utilizzate dalle forze di polizia hanno cominciato a assomigliare sempre di più ai modelli strategici, agli strumenti, no? Alle strumentazioni e i dispositivi a disposizione delle forze armate. Però questo è solo il piano strategico operativo, in realtà c'è un'altra dimensione della militarizzazione che è altrettanto preoccupante, cioè al di là della questione dei mezzi e delle strategie operative c'è il piano dell'organizzazione interna del corpo di polizia, e che invece il concetto di militarizzazione di cui di solito si parla per esempio in Europa, insomma, che è caro alla tradizione di studi in senso lato criminologici, sì. Europei. Allora, in questo senso, quando si parla di polizia militarizzata, si parla di un corpo di polizia in cui c'è, al cui interno c'è una forte pressione gerarchica, in cui diciamo i funzionari inferiori hanno scarsi, se non nulli, nessun margine per mettere in discussione gli ordini ricevuti, anche quando gli ordini sono in violazione della legge, per esempio, perché la pressione disciplinare è molto forte, e c'è una completa assenza di democrazia all'interno, quindi non ci sono rappresentanze sindacali, non ci sono organi diciamo assembleari o di rappresentanza dei funzionari di rango inferiore, che quindi diciamo portano democrazia all'interno del corpo. Allora, questo è anche l'altro grande significato di militarizzazione che è molto preoccupante. Sì. Quindi da un lato un piano strategico operativo, e quindi l'idea che la polizia intervenga con lo scopo di neutralizzare, no, un individuo, che si percepisce come ostile, minaccioso, no? E quindi deve essere neutralizzato, sì, con ogni mezzo, e dall'altro il piano dell'organizzazione interna del corpo. Sì. Ora, prego. Professor Campesi ha fatto bene intanto aggiungere dei tasselli, perché sì, anche nella vulgata, quando si parla di militarizzazione della polizia, si pensa immediatamente alle armi che sono in dotazione ai militari, che è un pezzo di un più ampio processo che ci stava descrivendo. Le proporrei, professor Campesi, di aggiungere però questo tassello, perché le immagini che arrivano da New York e da altre città statunitensi erano particolarmente impressionanti. Tutto inizia, se volete, in realtà anche un po' prima, però nel 1997, quando Bill Clinton, con un particolare decreto, ha permesso al Ministero della Difesa di trasferire fondi, ma anche armi, ai corpi di polizia. Lo abbiamo riassunto, questo processo, in 90 secondi. Nel 1997 il presidente democratico Bill Clinton, con il programma 1033, autorizzò il Dipartimento della Difesa a trasferire attrezzature militari alla polizia. Da allora le forze dell'ordine hanno ricevuto equipaggiamento militare per un valore totale di 7,2 miliardi di dollari. Nel 2015 Barack Obama limitò il controverso programma a seguito delle critiche per la dura repressione delle proteste di Ferguson innescate dall'uccisione di Michael Brown. L'anno precedente le forze dell'ordine avevano ricevuto equipaggiamenti militari per un valore di 377 milioni di dollari, la cifra più alta dall'inizio del programma. Nel 2017 Donald Trump firmò un ordine esecutivo che invertì le restrizioni. Secondo gli ultimi dati del Pentagono, le forze dell'ordine in tutto il paese sono in possesso di forniture militari per un valore totale di 1,8 miliardi di dollari. Secondo le informazioni fornite dalla Defense Logistics Agency, i veicoli blindati originariamente schierati in Iraq e in Afghanistan rappresentano l'equipaggiamento più costoso trasferito dall'esercito alla polizia. 1099 unità per un totale di 745 milioni di dollari. Seguono furgoni, 2711 mezzi pari a 184,2 milioni e aerei, 13 velivoli per un valore di 98,7 milioni. La lista include anche visori notturni, lanciagranate, fucili d'assalto, elicotteri e attrezzatura per il rilevamento di mine. Uno studio pubblicato nel 2017 mostra chiaramente il rapporto direttamente proporzionale tra l'equipaggiamento militare in dotazione alla polizia e il numero di civili uccisi dalle forze dell'ordine. È la legge dello strumento, spiega Ryan Welch, uno degli autori dello studio. Quando si ha un martello, tutto sembra un chiodo. Le forze dell'ordine con forniture militari trovano sempre modi per incorporare questi strumenti nelle loro attività. Inoltre, secondo una ricerca dell'American Economic Journal, ricevere forniture militari non ha aiutato la polizia a ridurre significativamente il tasso di criminalità. È stato invece calcolato che l'acquisizione di veicoli porta ad una riduzione di 4,7 reati ogni 100.000 individui, mentre mezzi informatici portano ad una riduzione di 7 reati ogni 100.000 persone. Quando si ha un martello tutto sembra un chiodo, questo la legge dello strumento spiegata da Ryan Welch, che è uno degli autori dello studio. Torno dal professor Giuseppe Campesi, Università di Bari, criminologo che studia proprio anche i rapporti che vi sono tra le forze di polizia e le società civili. Professor Campesi, se è la legge dello strumento, come si spiegano in 5 paesi del mondo la presenza di forze di polizia praticamente non armate? Sto pensando all'Inghilterra, sto pensando alla Nuova Zelanda, per esempio alla Norvegia. Sono più efficaci? Allora, sicuramente rispondono ad un modello diverso di polizia, un modello secondo il quale appunto la polizia è al servizio del cittadino, un modello secondo il quale la funzione principale della polizia è la tutela dei diritti del cittadino. Una polizia militarizzata, al di là degli effetti effetti che può avere il processo di militarizzazione, magari ci torniamo, sì, però sicuramente sul piano della filosofia politica di fondo è indice dell'idea che appunto la polizia deve relazionarsi con una popolazione o con una parte della popolazione che viene percepita come nemica, quindi come una parte della popolazione a cui si ritiene diciamo possibile negare dei diritti, verso i quali ci si deve relazionare come appunto ci si relaziona con soggetti potenzialmente ostili da neutralizzare ad ogni costo, il che è l'opposto dell'idea di polizia democratica, sì, sì, e che dal mio punto di vista è ancora più preoccupante di tutte le controindicazioni e gli effetti negativi che gli approcci militari all'ordine pubblico possono avere. Professor Cambisi, la interrompo per un istante, andiamo a sentire come vanno le borse e poi riprendiamo questo discorso perché mi pare interessantissimo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano vi proponiamo una riflessione sullo stato dell'arte delle forze di polizia, partendo soprattutto da quelle statunitensi dopo il scalpore, il cordoglio per la morte di George Floyd. Stiamo chiacchierando col professor Giuseppe Campesi, insegna scienze politiche all'Università di Bari, crimine, pena e società, Migration, Borders, Human Rights, varie pubblicazioni proprio sul tema dei poteri di polizia nell'età contemporanea. Professor Campesi, stavamo analizzando anche le differenze di modelli, no? Tra polizia pesantemente armata e polizia invece che ricorre magari più alla stazza fisica che ad armi da fuoco. In questo caso appunto un riferimento alla storia dei corpi di polizia, delle forze di polizia è parecchio illustrativo, perché tipicamente le forze di polizia militari o militarizzate venivano utilizzati per esempio per il controllo delle zone periferiche, no? Oppure per il controllo delle colonie o dai regimi autoritari, insomma in quei casi o da quelle forme di potere che avevano una scarsa legittimazione rispetto alla popolazione su cui si esercitava il controllo, sì, e che quindi gestivano il controllo e governavano quella popolazione come una popolazione nemica, ostile, diciamo, di cui diffidare, da controllare con strumenti di deterrenza anche militari. Invece nei paesi di più lunga tradizione democratica, in particolare diciamo l'Inghilterra e i paesi che si sono ispirati al modello inglese, gli Stati Uniti anche all'inizio, sì, hanno una lunga tradizione di polizie demilitarizzate o civili, addirittura non armate, no? Per questo il tema della militarizzazione è centrale nel dibattito criminologico statunitense, perché appunto, come dicevate voi anche nel vostro punto in cui avete messo, sì, a fuoco, no, questo fenomeno, è un fenomeno recente che comincia negli anni 90, quando appunto si comincia a notare questa trasformazione, no, nei modelli strategico-operativi della polizia statunitense, che invece ha storicamente una tradizione da polizia civile. Sì. Le parole e l'analisi del professor Campesi, Scienze Politiche, Università di Bari. La vostra voce invece, che arriva al 349-238-6666, ma se i cittadini statunitensi sono armati, come si fronteggiano con le pistole d'acqua? Il problema è il libero mercato delle armi, che nessuna amministrazione ha mai voluto diminuire, anche se in realtà non è esattamente così, perché ci sono stati presidenti che hanno provato a ingaggiare un braccio di ferro con la National Rifle Association, e qualcuno torna proprio all'NRA dicendo sostanzialmente le elezioni le vinceranno chi otterrà l'appoggio dell'NRA stessa, qualcun altro la lobby delle armi detta legge, anche perché gli americani da sempre non ne possono fare a meno, così Enrico. Poi interessante il messaggio di Sergio, che vive 3 mesi all'anno al Chicago. Non girate intorno, il vero problema sono le armi, i poliziotti, che per carità non giustifico, anzi, ma sono terrorizzati. Che invece dei documenti, quando fermano qualcuno in automobile, tirano fuori la pistola, e così in ogni situazione. Fino adesso non vi ho sentito parlare del vero problema, e così Sergio, che in realtà è un pezzo del problema, ne abbiamo parlato molto spesso, è del possesso di armi da fuoco negli Stati Uniti. Qualcuno torna sul tema: come si può controllare zone come Compton con le gang come Crips e Bloods senza armi. Ecco, professor Campesi, ma non si rischia a questo punto, come dire, un'escalation tra guardie e ladri? La polizia si arma più pesantemente per avere potenza di fuoco superiore rispetto alle gang criminali, le quali faranno esattamente lo stesso. C'è un punto in cui ci si ferma oppure una escalation in cui... Perché poi il concetto di deterrenza quanto funziona? Ecco, appunto. Allora, innanzitutto sì, il rischio di escalation, voi avete giustamente citato la metafora parecchio efficace, se hai un martello tutto ti sembra un chiodo, ma viceversa. Il problema è che appunto una polizia militarizzata fa crescere il sentimento di ostilità nei confronti delle forze di polizia, e specialmente delle minoranze o di quelle fasce di popolazione che subiscono la violenza di polizia o ritengono di subire in maniera... Certo. Particolare alla violenza di polizia, e quindi diciamo si scoraggia la collaborazione, se non addirittura diciamo si incoraggiano risposte di tipo violento, la resistenza o anche violenta all'intervento delle forze di polizia. E questa è una spirale in cui facilmente precipitano appunto quelle società fortemente divise al loro interno, dove ci sono minoranze particolarmente segregate che soffrono di particolari svantaggi sociali, sì. O appunto, io citavo i regimi coloniali, citavo certo. Il governo delle periferie, dove certo. Appunto ci sono popolazioni che resistono diciamo ad un ordine imposto da un governo centrale, sì. Ma una situazione degli Stati Uniti dove la segregazione razziale è particolarmente pronunciata, ma penso anche al Brasile, no? Una società fortemente divisa dal punto di vista razziale e di classe. Assolutamente. E in situazioni di questo tipo è chiaro che l'approccio militare alla gestione dell'ordine pubblico non rischia semplicemente di far degenerare la violenza, di produrre un'escalation senza fine. In ultima istanza, professor Campesi, quale chiedo uno sforzo incredibile di grande sintesi, esiste una, come dire, una ricetta per... un nuovo patto tra polizia e cittadinanza anche in situazioni così complesse? Lei citava alcune periferie, mi sono venute in mente alcune miei lunghi stazionamenti e missioni a Molenbeek, per esempio, appena fuori Bruxelles, a Saint-Denis, a nord di Parigi, dove qualche anno fa, 2006, le banlieue bruciavano, e come, ecco, lì l'astio nei confronti della polizia è molto molto palpabile. Come si ricuce questa spaccatura che in alcune situazioni avviene? Beh, su questo c'è evidentemente una letteratura immensa, sì. Si fa spesso riferimento al modello di polizia di comunità, cioè un modello di polizia che ricostruisce i rapporti con la comunità. Certo, è un concetto ambiguo quello di polizia di comunità, che non è possibile diciamo esplorare così sì. in pochi secondi. Sicuramente da un lato un modello di polizia che abbia come sua missione, diciamo, che mantenga ferma l'idea diciamo del rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali degli individui, che quindi non tratti gli individui come nemici, come soggetti da cui diciamo difendersi con strategie di deterrenza, e che è il modello dello Stato di diritto, no? Di polizia, da un lato, è un modello che sappia ricucire i rapporti tra in particolare le minoranze, le comunità più svantaggiate e le forze di polizia. Per esempio negli Stati Uniti per tanto tempo si è cercato di integrare le minoranze nel corpo di certo. polizia. Ecco, per esempio, questo è un problema che l'Italia si dovrà porre nei prossimi anni, perché l'Italia diciamo ormai è un paese multiculturale, insomma, in cui la presenza immigrata diciamo è stabile e abbastanza consistente, e nei prossimi decenni, nei prossimi 10 anni si comincerà a porre il problema dei rapporti tra le nostre forze di polizia e le comunità di origine immigrata. Non c'è dubbio. Si dovremmo porre il problema della loro rappresentanza anche nei corpi. No? Non c'è dubbio, il professor Campesi ha toccato un tema che tra pochissimo esploreremo in maniera un pochino più sistematica. Intanto però fatemi ringraziare il professor Giuseppe Campesi, Università di Bari, criminologo, per essere stato con noi. Professore, grazie mille, buona giornata, grazie, e buon lavoro. Grazie. (349) 238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. Ma come promesso, siccome non leggo messaggi razzisti e xenofobi, ce ne sono un paio in particolare che credo agognino una risposta, una reazione a queste provocazioni da parte mia, non lo farò, mi duole per gli altri ascoltatori che non sanno di questa piccola diatriba che è in corso in questo momento. Altri messaggi invece sono meritevoli di essere letti. Qualcuno per esempio chiede il taser quanto è impiegato, fatto 100% l'uso complessivo di armi da parte della polizia, e questo sicuramente è un tema, cioè l'alternativa per rendere inoffensivo qualcuno che magari è difficile, no, da rendere tale. Molti di voi stanno tornando sul punto, la Costituzione americana che preserva il possesso delle armi, e certamente sarà un punto che la polizia, ma anche la politica statunitense, che si sta interrogando proprio sulle funzioni, sulle modalità dell'ordine pubblico, dovrà guardare negli occhi. Tra pochissimo vi farò sentire la voce di un altro criminologo, Roberto Cornelli, criminologia Milano Bicocca, e poi anche la voce di Joe Imperatrice, è un sergente di polizia statunitense, è uno sostanzialmente dei promotori, dei cofondatori di Blue Lives Matter, che fa l'eco a Black Lives Matter. Dice: attenzione, anche le vite dei poliziotti contano, anche noi moriamo per le strade. State con noi. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Non è solamente un dibattito, una presa di coscienza, è un qualcosa di cui si discute negli Stati Uniti d'America. Vi faccio sentire la voce di Thomas, o Thomas meglio. Lo scorso 19 aprile, siamo in Belgio, ha denunciato su Twitter le violenze della polizia verso gli stranieri a cui ha assistito durante anni di servizio. Dopo il suo tweet, Thomas ha ricevuto decine di messaggi privati di poliziotti che hanno raccontato di aver assistito agli stessi abusi. Sentite la sua voce. Ho avuto cose atroci au niveau du terrain. Dès qu'on arrêtait des personnes étrangères, elles avaient un traitement. Ho visto delle cose atroci sul campo. Mi riferisco a quando fermavamo persone straniere. Il trattamento era completamente diverso rispetto al comportamento verso le persone di origine belga. Nella sala dove si riunivano tutti gli ispettori c'era un foglio sul muro con su scritto «Diamo la caccia alla feccia». Parliamo di persone. E sotto c'erano le foto degli stranieri ricercati. Ma vi rendete conto? Quando ho raccontato tutto su Twitter, vi giuro che ho ricevuto tantissimi messaggi in privato. Tutte testimonianze di poliziotti che avevano vissuto la mia stessa esperienza. Quello che ho vissuto è reale, esiste. C'è del razzismo nella polizia e questo deve cambiare. Voilà, il y a du délit de sale gueule, il y a du racisme dans la police et faut que ça change. Questa è una delle testimonianze, segno che anche in altri paesi, anche in Europa, vi sono delle riflessioni in corso. Una riflessione l'ha fatta, ce l'ha regalata Roberto Cornelli, professore di criminologia, Università di Milano Bicocca, studia da tempo le forze di polizia nel mondo, ma anche i suoi rapporti con le società, e ci paventa, ci tratteggia quella che è una soluzione, premettendo che non è facile parlare di queste cose proprio dopo la morte di Floyd, e a volte basta andare dall'altra parte dell'oceano per trovarle, sentite. Certo, qui il discorso sarebbe molto lungo, perché noi abbiamo dei punti di riferimento. È vero che oggi sembra che sia esploso per la prima volta il conflitto tra polizie e una parte della popolazione, quella statunitense afroamericana, ma in realtà questo conflitto, questa tensione risale agli anni 60, al movimento per i diritti civili, e risale alla guerra alla droga degli anni 70 di Nixon, risale alle rivolte che ci sono state negli anni 90, e quindi è qualcosa che contraddistingue in qualche modo la politica americana. Allora, una cosa che bisogna capire è che le polizie sono il terminale di una serie di azioni che riguardano lo Stato e le istituzioni, e sono più visibili di altre istituzioni. Quindi quando noi parliamo del razzismo della polizia americana, dobbiamo tenere conto che non è uno specifico della polizia americana il razzismo, ma è uno specifico della società e delle istituzioni americane, e di cui la polizia forse è la parte più visibile, perché è quella che agisce di più per strada, perché è quella che interviene sulle libertà delle persone. Quindi un primo livello di riforma non riguarda la polizia, paradossalmente, ma riguarda una capacità delle istituzioni di operare delle riforme a più ampio spettro antidiscriminatori. Per quanto riguarda la polizia, però, si possono fare anche molti passi in avanti. Io ho potuto vedere come alcuni dipartimenti dipartimenti di polizia nel Nord America abbiano, attraverso il community policing, coinvolto le minoranze etniche non solo nella gestione, nell'organizzazione della polizia, ma anche nella definizione di strategie di polizia, come per esempio in alcune città americane la community policing è riuscita a stabilire talmente con tale forza il legame con le comunità etniche da non esserci per esempio oggi presenti delle manifestazioni di piazza nei confronti della polizia. Allora, quello che può fare la polizia sempre in una società democratica è che quando si crea un problema di legittimità, questa legittimità vada affrontata come un problema democratico, e quindi che la polizia si metta in azione per poter attivare forme di apertura nei confronti di quei cittadini che si sentono non riconosciuti e anzi discriminati dall'attività di polizia. È una questione importante per la polizia, ma è una questione importante per tutte le società democratiche. L'analisi di Roberto Cornelli, professore di criminologia Milano Bicocca, esperto proprio di forze di polizia che ha studiato in vari quadranti del mondo. Qualche ascoltatore mi chiede se ci chiediamo se le forze di polizia siano migliori nei paesi islamici o alcuni stati africani. Stiamo analizzando soprattutto l'Occidente. Dovessimo aprire il polverone di come agiscono le forze di polizia in alcuni luoghi del globo, beh, non basterebbero 20 puntate in nessun luogo lontano, e avrei tante testimonianze anche in prima persona da portarvi, ascoltatrici e ascoltatori. Qua stiamo parlando del cosiddetto Occidente, in particolare di paesi con alti tassi di democrazia. Come promesso, Blue Lives Matter, anche la vita dei poliziotti. Conta Antonio Tali, appena raggiunto Joe Imperatrice, che è un sergente New York Police Department. Che cosa pensa dell'idea di defunding police, cioè sottrarre fondi alle forze di polizia per destinarle ad altra spesa pubblica? Sentite. It's absolutely wrong. It's not the direction to go. È assolutamente sbagliato, dice, non è la direzione giusta da intraprendere. Come abbiamo visto solo la notte scorsa a New York, 8 persone sono state colpite da colpi di arma da fuoco ed è successo tutto nel giro di circa 20 minuti, dice il sergente di polizia. Senza i poliziotti i responsabili non si sarebbero spaventati delle conseguenze delle loro azioni. La situazione avrebbe preso una piega ancora peggiore e magari anche in un lasso di tempo minore. Penso che questa iniziativa, dice il sergente Imperatrice, sia sostenuta da politici che vogliono guadagnarsi il favore delle stesse persone che adesso sono lì fuori a causare devastazione, quelli che spaccano le finestre, danneggiano proprietà private e si abbandonano al saccheggio. Sono le stesse persone che stanno ferendo i funzionari di polizia lanciando mattoni e altri oggetti, e non è così che dovrebbe andare. Mi pare che la gente stia dimenticando che oggi negli Stati Uniti, a Minneapolis, nel Minnesota, ci sono 4 agenti di polizia che sono responsabili per la morte di George Floyd. Ma scagliarsi contro ogni singolo funzionario di polizia americana, odiare ogni singolo poliziotto e cambiare le regole per rendere più difficile il lavoro di noi poliziotti è un comportamento sbagliato. La voce di Joe Imperatrice, sergente New York Police Department, tra i fondatori di Blue Lives Matter, che risponde in qualche modo a Black Lives Matter, e la tesi è: attenzione, anche noi poliziotti a volte usciamo in servizio e non torniamo a casa. Ma che cosa ne pensa questo sergente, Joe Imperatrice, della morte di Floyd? Well, every day there's more and more facts that are coming out. Ogni giorno, racconta, emergono sempre più fatti su quello che è successo dall'inizio della vicenda fino alla morte del signor Floyd. Nessuno mai, in nessuna situazione, meriterebbe di perdere la vita nel corso di un'operazione di polizia. Non importa quante siano intense le circostanze. Ai funzionari di polizia viene insegnato, in teoria, che anche nei confronti dei criminali bisogna agire con rispetto all'interno di un certo protocollo, e che uno degli obiettivi è anche la sicurezza dell'arrestato. Quello che è successo al signor Floyd è rivoltante, spacca il cuore, e personalmente ho provato molto dolore nell'assistere alle azioni di questi poliziotti. Ho sperato fino all'ultimo che almeno uno di loro si levasse per difendere il signor Floyd, cambiando il corso degli eventi. Penso che forse questa è la prima volta in cui negli Stati Uniti sia il pubblico che la polizia si trovano d'accordo sul fatto che le azioni di un poliziotto erano completamente sbagliate, dolorose e disumane. Così, raggiunto da Antonio Talia pochi minuti fa, Joe Imperatrice, Blue Lives Matter, un sergente di polizia che da un lato boccia a muso duro quella che è la proposta di tagliare i fondi alle forze di polizia stesse, dicendo: attenzione, è un po' la tesi che portavano alcuni ascoltatori, se ci troviamo davanti criminali o gang che devastano la città armati di tutto punto, come facciamo a limitare la loro potenza di fuoco? Dall'altra parte esprime tutto il suo sdegno e il suo dolore rispetto a quello che è avvenuto con George Floyd, benché pochi ascoltatori, devo dire, continuino a dire che George Floyd non è morto per quella pressione sul ginocchio, e allora non so francamente che cosa rispondere, non so cosa leggono questi ascoltatori normalmente. E dall'altra parte, dicevo, sottolineo un punto, che per la prima volta nelle storie degli Stati Uniti, e tante immagini abbiamo visto di poliziotti che si inginocchiavano in segno di omaggio, sono d'accordo nel scagliarsi contro queste azioni che sono sbagliate. Riuscirà la polizia e la politica statunitense a fare una riflessione? Intanto a voi una parola. E ringraziamenti naturalmente per essere stati all'ascolto e aver animato il dibattito anche quest'oggi. Tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, a loro va il mio grazie. L'appuntamento è per domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.